dirò qualche parola prima di iniziare con la pratica. One of the problems with vipassana, a problem that may arise with vipassana, is that the meditator has discovered this very objective position within themselves. Uno dei problemi che potrebbe sorgere con la vipassana è che il meditante ha scoperto questa posizione molto oggettiva dentro di sé. And the quality, of course, is equanimity. E la qualità, ovviamente, è l'equanimità. But unfortunately, this equanimity can corrupt into indifference. Ma questa equanimità può corrompersi e diventare indifferenza. And to stop that, we have to re-engage with the psychophysical organism and through that into the world. E per evitarlo dobbiamo riimpegnarci dentro questo psico-organismo e attraverso di esso rimetterci praticamente in gioco nel mondo. So metta is the attitude which translates the wisdom in, that helps to translate the wisdom into an action. E quindi metta è un modo per trasformare la saggezza in azione. It's best not to write anything, or I've given talks on this on the website, and it's best just to do the practice, because this won't take long, the explanation. Quindi in questo caso è meglio non scrivere niente, perché ci sono delle cose anche sul suo sito riguardo a, alla metta. È meglio semplicemente fare la pratica direttamente. Metta is something that the Buddha really advises us to do, which you can see from the chanting in the morning. Metta è una cosa che il Buddha ci suggerisce di fare, e questo lo vediamo anche nel canti del mattino. We should live with the heart of goodwill all the time. Dovremmo sempre vivere con questo cuore di benevolenza. And this is the dual, the two qualities of meditation action, attention and care. Queste sono le due qualità di meditazione in azione, l'attenzione e la cura. This talk is being recorded, so you can always download this talk. Questo discorso lo stiamo comunque registrando, quindi si può sempre scaricare questo dal sito. And it's what you might call the foundation relationship that we have with all beings. Possiamo chiamarla la relazione di base che noi abbiamo con tutti gli esseri. You can see this, for instance, with friendship with a good friend. E questo si può vedere, per esempio, con un buon amico. Should the good friend fall into misfortune, then one of course desires to help. Se questo buon amico dovesse attraversare o avere una sfortuna, cadere in disgrazia, uno spontaneamente vorrebbe aiutarlo. And in the same way, if they have good fortune, if they're living a happy life, one is happy for them. E al contrario, se stanno invece avendo una buona vita, se hanno fortuna, allora una persona è contento per lui o per lei. So these are called the three limitables. Well, there are four of them: love, compassion, joy, and equanimity. Queste sono chiamate quattro illimitabili, e sono appunto l'amore, o la gentilezza amorevole, la compassione, la gioia, e qua, la gioia compartecipe e l'equanimità. Equanimity is the quality that, shall we say, sits beneath them all and stops them corrupting into their what is known as near enemies. Quindi l'equanimità è quello che sta alla base di tutte le altre ed è quello che impedisce che possano trasformarsi negativamente in quelle che sono chiamate i loro nemici vicini. So love can be polluted with attachment. Quindi l'amore può essere inquinato dall'attaccamento. Compassion can be confused with grief. La compassione può essere confusa con la pena. And excitement is often confused for joy. E l'eccitazione spesso viene scambiata per gioia. So love is part of the illimitables, which means that there's no seeable completion to their development. They can be developed for as long as we live. E quindi l'amore è uno di questi illimitabili, e ciò significa che non c'è un limite alla loro come dire, completezza. Non, noi possiamo amare fino per tutta la durata della nostra vita. So metta is this for me the best translation is goodwill. Quindi la traduzione migliore per me di metta è benevolenza. And so that's what we are developing through this practice. Ed è ciò che noi stiamo sviluppando attraverso questa pratica. And we do exactly what we do in the evening. Facciamo esattamente quello che facciamo la sera. But when we come to all beings, we'll extend it a bit into the all beings within six directions. Ma quando arriviamo a esprimere metta a tutti gli esseri, lo facciamo agli esseri nelle sei direzioni. Then after that there's an extended practice of forgiveness. Poi c'è una pratica aggiuntiva di perdono. And a smaller practice of how to develop determination. E poi una pratica più breve riguardo a come sviluppare la nostra determinazione. And we draw the practice to a close with offering metta to ourselves and to all beings. E poi concluderemo questa pratica offrendo metta a noi stessi e a tutti gli esseri. Now, feel free to change your posture because you don't want too much physical discomfort to get in the way of the practice. Quindi sentitevi liberi di cambiare la vostra posizione, perché in questa pratica non si vuole che una posizione troppo scomoda possa interferire con la pratica stessa. And if you do it slowly, quietly, it won't disturb you nor anybody else. Se lo fate lentamente, silenziosamente, non disturberà né voi né gli altri. So the four blessings, remember, are may you be safe, may you be well, may you be happy. Quindi le benedizioni, vi ricordate, sono che tu possa essere felice, che tu possa stare bene, che tu possa essere al sicuro. La prima è essere al sicuro, stare bene, essere felice. And may you live contented in harmony with the world. Che tu possa vivere appagato e in armonia con il mondo. So, as we do, bring to mind those people in our lives who've helped us. Quindi mentre la facciamo, portate alla vostra mente quelle persone nella vostra vita che vi hanno aiutati. Mind our those who are near and dear to us, family, relatives, and so on. Sopportate alla mente le persone vicine e care, la famiglia, gli amici, parenti, così via. To mind friends, people at work, whomever we wish. Portate alla mente degli amici, colleghi di lavoro o chiunque vogliate. Thank you. and bring to mind some neutral people and offer them the same quality of goodwill. E portate alla vostra mente una persona neutra e offritegli le stesse qualità della benevolenza. Turn now that stream of goodwill towards ourselves. Adesso rivolgiamo questo flusso di benevolenza verso noi stessi. And into the heart of goodwill, someone we find difficult. Dentro il cuore della benevolenza, qualcuno che noi troviamo difficile. Now beginning to radiate outwards, first of all, to each other, our spiritual companions during this time. Adesso cominciamo a estenderlo verso l'esterno, innanzitutto con le persone qui presenti, i nostri compagni spirituali che ci hanno accompagnato in questo periodo. And radiating out towards our neighbours, and remember here you can relocate to where you live. Adesso rivolgiamo ai nostri vicini, e ricordate che qui possiamo anche immaginarci di essere nel luogo in cui viviamo. from there to begin to radiate outwards to all the people in our country. E da lì cominciamo a irradiare verso l'esterno tutte le persone nel nostro paese. From there, continuing that radiation to all the peoples of Europe. Da lì continuiamo questo irradiare a tutti i popoli dell'Europa. Continuing to all people on earth. Continuiamo a radiare a tutte le persone nel mondo. And as in your mind's eye come across areas where there's war, famine and so on, just put there a bit of special metta. E se con l'occhio della mente arrivate in dei luoghi dove c'è guerra, dove c'è carestia e così via, allora lì rivolgete un po' di più della vostra metta. And now we can offer our metta to all beings in various directions. Adesso possiamo offrire la nostra metta a tutti gli esseri nelle varie direzioni. So this is to develop goodwill in the way which is completely impartial. Questo è un modo di offrire o sviluppare benevolenza in un modo che è del tutto imparziale. So that no matter who stands before us, they get the same quality of goodwill. Così non importa chi sta davanti a noi, riceveranno la stessa qualità di benevolenza. Offering our blessings to all beings before us. Offriamo le nostre benedizioni a tutti gli esseri davanti a noi. All beings behind us. Tutti gli esseri dietro di noi. All beings to our left. Tutti gli esseri alla nostra sinistra. All beings to our right. Tutti gli esseri alla nostra destra. All beings behind us. Tutti gli esseri dietro di noi. All beings below us. Tutti gli esseri sotto di noi. And all beings above us. Tutti gli esseri sopra di noi. And finally, to all beings in all directions. E infine a tutti gli esseri in tutte le direzioni. Having developed this heart of goodwill, we can practice a little bit the art of forgiveness. Dopo aver esercitato questa, sviluppato questa benevolenza, questo cuore di benevolenza, adesso possiamo esercitarci nella pratica del perdono. This is a good time to change your posture if it's become uncomfortable. Quindi questo è un buon momento per cambiare la postura se è diventata scomoda. Now, in the practice of forgiveness, it's like metta. You don't have to feel forgiving for this practice to work. Quindi nella pratica del perdono, un po' come nella pratica di metta, non è necessario sentirsi, come dire, avere la volontà di perdonare affinché questa pratica funzioni. Our emotional life is one thing, our attitudes are governed by our will. Our emotional life is one thing. Quindi la nostra vita emotiva, emozionale, è una cosa, invece i nostri our attitude is governed by the will. I nostri atteggiamenti sono governati dalla volontà. Eventually, of course, the heart begins to resonate with the will, and that's when you get good feelings. Prima o poi il cuore comincia a entrare in sintonia con la volontà, ed è qui che si sviluppano questi buoni sentimenti. Then of course we make the mistake of practicing metta and other practices just in order to feel good. E poi facciamo l'errore ovviamente di praticare la metta o altre pratiche allo scopo di sentirci bene. So now this exercise is using our imagination. Quindi in questo esercizio useremo la nostra immaginazione. So this is different from Vipassana where we're trying to close the thinking mind down. E quindi è diverso dalla Vipassana dove stiamo cercando invece di chiudere la mente pensante. It's a bit like preparing for an interview. È come se ci stessimo preparando per un colloquio. So when we go for a job we imagine how the interview will be. Of course when we go for the interview it's never quite the same. Quindi quando andiamo per un colloquio di lavoro ci immaginiamo come sarà questo colloquio, poi ovviamente quando siamo effettivamente lì non è come ci eravamo aspettato, come ci eravamo immaginato. But the exercise has actually prepared us mentally for the interview. Ma l'esercizio però ci ha preparato mentalmente per il colloquio. So these exercises are preparing us to forgive, to ask for forgiveness and to forgive ourselves. Quindi questo esercizio ci prepara a perdonare, a chiedere il perdono e a perdonare noi stessi. So first of all, let's work with somebody who has whom we have hurt. Allora iniziamo con il lavorare con una persona a cui noi abbiamo fatto del male. So you can bring to mind somebody. You needn't go for the big one. Riportate alla mente qualcuno, non è necessariamente scegliere quello più grosso. And as that person comes to mind, the incident will come to mind, the occasion and so on, and what you did. Quindi man mano che portate alla mente questa persona, vi apparirà anche la situazione, l'evento che l'ha causato, così via. And as that comes, of course, the emotions around it will arise. E sorgeranno anche tutte le emozioni intorno a quella situazione. So there may still be the anger which made you do something, the feeling of righteousness. Quindi potrebbe esserci ancora la rabbia che vi ha portato a compiere quell'azione, oppure questa sensazione di essere nel giusto. On the other hand, there may be guilt, shame, even and so, maybe remorse. O potrebbe esserci il senso di colpa, la vergogna, anche il rimorso. So as those come up, we find that we have a reaction, just like in Vipassana. Quindi man mano che sorgono queste emozioni, noi ci accorgiamo che c'è una reazione, quindi esattamente come nella Vipassana. So when feelings of anger and righteousness arise, we want to indulge them. Quindi quando sorgono queste sensazioni di rabbia o di sentirsi nel giusto, quindi un po' di orgoglio, noi vogliamo indulgere a essi. But when guilt and shame come and remorse even, we can be pushing them away. Ma quando sorgono i sensi di colpa o la vergogna o il rimorso, allora noi tenderemo ad allontanarli. So again, if the mind wanders, you just bring it back, start the exercise again. Se la mente divaga, riportatela indietro e ricominciate l'esercizio. So here we have a person, an occasion, the attendant emotions around it and our reactions to them. Quindi qui abbiamo una persona, la situazione, tutte le emozioni che la circondano e la nostra reazione a tutto questo. So, just working with that little vicious circle, somebody whom we have harmed. Quindi lavorando con questo piccolo circolo vizioso, pensiamo a una persona a cui noi abbiamo fatto del male. We see how we cause suffering for ourselves. Riusciamo a vedere come creiamo sofferenza a noi stessi. We acknowledge how these attitudes and emotions are unwholesome, leading to more suffering. Riusciamo a riconoscere come questi atteggiamenti sono non salutari e come portano a ulteriore sofferenza. The antidote is to ask for forgiveness. L'antidoto è quello di chiedere perdono. Seeking reconciliation. E cercare una riconciliazione. So here, using our imaginative imagination, bring that person to mind, talk to them, and bring yourself round to asking them to forgive you. Quindi usando la nostra immaginazione portiamo a mente questa persona e troviamo la forza per chiedere a questa persona il suo perdono. Whatever harm I have done to you, qualunque male io ti abbia fatto, in thought, word and deed, attraverso il pensiero, la parola e l'azione, by way of greed, hatred and delusion, a causa dell'avidità, dell'odio, dell'illusione, intentionally or unintentionally, intenzionalmente o non intenzionalmente, I'm sorry for it. Me ne dispiace. Please forgive me. Ti prego di perdonarmi. Perhaps you can see in them a desire to be reconciled, holding out a hand of friendship. Adesso che riusciate a vedere in loro questo desiderio di essere riconciliati, che vi tendono la mano della riconciliazione. Can you take it and be received back into their hearts? Potete accogliere questa mano e ritornare dentro i loro cuori. And offering them our blessings. Gli offriamo la nostra benedizione. May you be safe, well and happy. Che tu possa essere al sicuro, stare bene, essere felice. May you live contented in harmony with the world. Che tu possa vivere appagato in armonia con il mondo. Allowing now that person to fade away and return to the heart of goodwill. Quindi permettete a questa persona adesso di dissolversi e tornate al cuore della benevolenza. And now into our hearts bring someone who's done us harm. Adesso dentro il nostro cuore portiamo qualcuno che ha fatto del male a noi. So again, if the mind wanders, just bring it back. No, se la mente divaga, riportatela indietro. So here we have a person or an event. Abbiamo una persona, un evento. The attendant emotions and attitudes. Le emozioni e le attitudini relative. And our reactions to them. E le nostre reazioni ad esse. So there's still a sense of revenge and anger. C'è ancora un senso di vendetta, di rabbia. But also the hurt. Ma anche la ferita. And of course we want to indulge our revenge. Ovviamente vogliamo indulgere al nostro spirito di vendetta. And we don't want to feel the hurt. Non vogliamo sentire invece la ferita. So, working with that little vicious circle. Lavoriamo con questo piccolo circolo vizioso. Someone who's harmed us. Qualcuno che ci ha fatto del male. Can we see how we cause suffering for ourselves? Riusciamo a vedere come causiamo sofferenza a noi stessi? We acknowledge these attitudes, emotions and so on as being unwholesome, leading to more suffering. Riusciamo a riconoscere queste emozioni, questi atteggiamenti come non salutari, che portano a ulteriore sofferenza. And the antidote is to forgive. E l'antidoto è quello di perdonare. To forgive here doesn't mean to try and forget something. That's just another way of suppressing. Perdonare qui non vuol dire cercare di dimenticare qualcosa, perché questo è solo un altro modo per sopprimere. And to forgive somebody, we don't have to excuse them. E per perdonare qualcuno non è necessario scusarli in qualche modo. And sometimes, because we want to punish them for what they did, we sort of feel we're letting them off, almost agreeing with what they did. The first part was, and because we sometimes want to punish them. A volte vogliamo punirle queste persone, quindi in un certo senso è quasi come se gli dessimo ragione. Siamo d'accordo con quello che hanno fatto. So forgiveness is just recognizing that all these emotional states and mental states and attitudes are caused by me. E quindi il perdono vuol dire riconoscere che tutti questi stati emotivi o mentali sono tutti causati da me. And that I want to purify my own heart. E che io voglio purificare il mio cuore. And to stop the consequences, to stop the consequences of what the other person has done in me. Evitare le conseguenze di ciò che l'altra persona ha fatto dentro di me, or has caused me to create in me, oppure che ha causato a me di creare in me stesso. So just bringing that person to mind, and again using our imagination to bring us to a point where we can forgive them. Quindi portiamo questa persona nella nostra mente, con la nostra immaginazione, arriviamo a un punto dove noi riusciamo a perdonare. Whatever harm you have done to me, qualunque male tu mi abbia fatto, in thought, word or deed, col pensiero, la parola o l'azione, by way of greed, hatred and delusion, causa dell'avidità, dell'odio, dell'illusione, intentionally or unintentionally, intenzionalmente o non intenzionalmente. I forgive you. Ti perdono. Perhaps you can see in the other a desire to be reconciled. Può darsi che vediate nell'altro un desiderio di riconciliarsi. A certain relief. Un sollievo. Hold out the hand of friendship towards that person and see if you can take them back into your hearts. Allungate la vostra mano dell'amicizia verso quella persona. Vedete se riuscite a riportarle indietro. Into your heart. Nel vostro cuore. And offer them our blessings. E offriamo loro le nostre benedizioni. May you be safe, well and happy. Che tu possa essere al sicuro, stare bene, essere felice. May you live contented in harmony with the world. Che tu possa vivere appagato, in armonia con il mondo. Allow that image to fade away and return to the heart of goodwill. Permettete a questa immagine di svanire e tornate nel cuore della benevolenza. Turning now that heart, that compassion towards ourselves. Adesso rivolgiamo quella compassione verso noi stessi. And here there are two contemplations that help us undermine any self-hatred. Qui ci sono due contemplazioni che ci aiutano a eliminare ogni forma di odio verso se stessi. Unforgivingness towards oneself. Quindi il non riuscire a perdonare se stessi. The first is concerned with the dependence origination that we talked about last the other night. Quindi la prima riguarda la originazione dipendente, che è la cosa di cui abbiamo parlato l'altra sera. Remember that we begin from the position of ignorance. Ricordate che noi partiamo da una posizione di ignoranza. Now this ignorance has caused us to make a mistake. Questa ignoranza ci ha causato di compiere un errore. And this in turn has brought us into a relationship with the world of wanting, not wanting, greed and hatred. E questa a sua volta ci ha portato ad una relazione con il mondo basato sul volere, non volere, avidità o l'odio. And now that we've woken up to the suffering we're causing ourselves, we are, as it were, going backwards. Quindi adesso che ci siamo risvegliati a questa consapevolezza della sofferenza che noi creiamo noi stessi, come se noi tornassimo indietro. And eventually we will arrive at wisdom. E prima o poi arriveremo alla saggezza. Wisdom and understanding. La saggezza e la comprensione. So from not knowing we move towards knowing. Quindi da una posizione del non conoscere arriviamo al conoscere. Now from the heart's point of view, that not knowing is innocence. Dal punto di vista del cuore, questo non conoscere è l'innocenza. Meaning that there was never any desire to do any harm. Questo significa che non c'era nessun desiderio di fare del male. However, because of that mistake, we do so, and then we go through this process of purification. Ma a causa di questo errore noi lo facciamo e quindi dobbiamo attraversare questo processo di purificazione. And eventually we arrive at purity. E prima o poi arriveremo alla purezza. So from ignorance, from not knowing to knowing, from innocence to purity. Quindi dal non conoscere al conoscere, dall'innocenza alla purezza. So it's important for us to understand that we are not evil, or unwholesomeness is not actually part of our nature. Quindi è importante riconoscere che noi non siamo malvagi e che questo fatto di non essere salutari non fa parte della nostra natura. The second contemplation is to do with karma. La seconda contemplazione ha a che vedere con il karma. So here it's very simple. If we do something unwholesome, something unwholesome arises because of it. E qui la cosa è molto semplice. Se facciamo qualcosa di non salutare, allora qualcosa di non salutare ne conseguirà. And the same with wholesome produces wholesomeness. E lo stesso con qualcosa di salutare che produrrà qualcosa di salutare. So when we do something harmful, all we need to do is bear the consequences. Ogni volta che facciamo qualcosa di dannoso o che fa del male, quindi noi dobbiamo in qualche modo ricevere le conseguenze, sopportare le conseguenze. This is of course the quality of patience. E questa è la qualità della pazienza. And in bearing the consequences we learn a great deal and we resolve not to behave like that again. Quindi nel sopportare le conseguenze noi impariamo molto e prendiamo l'impegno di non comportarci di nuovo così, in quel modo. So in this understanding there is absolutely no need to add suffering by punishment. Quindi da questo punto di vista non c'è bisogno di aggiungere sofferenza attraverso una punizione. So in the same way, bring to mind something whereby we feel we've harmed ourselves. Quindi allo stesso modo portate alla mente qualche un modo in cui noi ci siamo fatti del male. And see how you feel about that, how perhaps you are very self-hating, self-accusing, self-judging. Sentite come vi sentite a questo riguardo, se vi sentite di giudicare voi stessi o accusare voi stessi o odiare voi stessi. And see how you how we want to actually indulge that. E vedete come vogliamo effettivamente indulgere a questo. And that indulging, that's the punishment, you see. That's the punishing us. E questo indulgere è la punizione, un voler punire noi stessi. So again, if the mind wanders, you bring it back and just try and get in touch with your feelings around something with which we've harmed ourselves. Se la mente divaga, riportatela indietro, cercate di entrare in contatto con qualcosa o un modo in cui noi ci siamo fatti del male, una situazione in cui ci siamo fatti del male. We see how we cause suffering for ourselves. Possiamo vedere come creiamo sofferenza a noi stessi. Acknowledge these attitudes, emotions and so on as unwholesome, just leading to more suffering. Possiamo riconoscere questi atteggiamenti, queste emozioni come non salutari, che portano a ulteriore sofferenza. Turning that compassion towards ourselves, let's forgive ourselves. Quindi rivolgiamo questa compassione verso noi stessi e perdoniamo noi stessi. And remember, it might not feel as though we're forgiving ourselves, but we're developing that attitude of doing so. Ricordate che potrebbe non sembrare effettivamente, non darci la sensazione di perdonare noi stessi, ma noi stiamo sviluppando quell'atteggiamento per poter sviluppare questa qualità. Talking to ourselves gently, lead ourselves to a point of self-forgiveness. Quindi parlandoci dolcemente, portiamoci ad un punto in cui riusciamo a perdonare noi stessi. Whatever harm I have done to myself. Qualunque male io abbia fatto a me stessa. In thought, word and deed. Con i pensieri, la parola e l'azione. By way of greed, hatred and delusion. A causa dell'avidità, dell'odio, dell'illusione. Intentionally or unintentionally. Intenzionalmente o non intenzionalmente. I'm sorry for it. Me ne dispiace. And I determine from this day on to develop a virtue. E io mi impegno da questo giorno in poi a sviluppare la virtù. Offering ourselves our blessings. E offriamo a noi stessi le benedizioni. May I be safe, well and happy. Che io possa essere al sicuro, stare bene, essere felice. May I live contented in harmony with the world. Possa vivere appagata e in armonia con il mondo. So now we can have a small exercise to develop determination. Adesso facciamo un piccolo esercizio per sviluppare la determinazione. There are four steps. Sono quattro passi, quattro fasi. First, we have to acknowledge that we can, we are able to resist temptation, develop virtue. In primo luogo dobbiamo riconoscere che noi possiamo, quindi abbiamo la possibilità di resistere alle tentazioni e sviluppare la virtù. Then we have to take on responsibility. I ought to, my own benefits and the benefits of others. Poi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, quindi diremo noi dovremmo farlo per il beneficio nostro e degli altri esseri. And sometimes we have to cajole the heart. I want to. A volte dobbiamo come coccolare il cuore. Io I want to. Voglio. And finally we have to determine. I will resist temptation and I will develop virtue. E infine dobbiamo esprimere la nostra volontà, quindi io ho la nostra determinazione, quindi io lo farò, quindi resisterò alle tentazioni e io svilupperò la virtù. So bring to mind a trait within ourselves which we see as unwholesome. Quindi pensiamo a un tratto, una caratteristica dentro di noi che consideriamo non salutare. And go through these four stages. E attraversate queste quattro fasi. I can resist that temptation. I ought to for my own benefit and the benefit of others. Quindi io posso resistere a questa tentazione. Io dovrei per il beneficio mio e degli altri. I want to and I will. Io lo voglio fare e io lo farò. Whenever the occasion arises. Ogni volta che sorgerà l'occasione. Can, ought, want and will. Quindi posso, dovrei, voglio e lo farò. In the same way we can bring a virtue to mind we want to develop. Allo stesso modo possiamo portare alla mente una virtù che vogliamo sviluppare. Same way, can, ought, want, and when the occasion arises, I will. E di nuovo, diciamo, io posso, io dovrei, io voglio, e quando verrà l'occasione io lo farò. And so finally let us turn the stream of goodwill towards ourselves. Infine rivolgiamo questo flusso di benevolenza verso noi stessi. May I be free of greed and selfishness. che io possa essere libera dall'avidità e dall'egoismo. May I be free of hatred and ill will. Che possa essere libera dall'odio e dalla malevolenza. May I be free of fear and anxiety. Possa essere libera dalla paura e dall'ansia. May I be free of ignorance and delusion. Possa essere libera dall'ignoranza e dall'illusione. May I be kind and gentle. Che io possa essere gentile e delicata. Sympathetic and benevolent. Empatica e benevola. May I be forgiving and compassionate. Che io possa perdonare facilmente e essere compassionevole. May I be joyful and rejoice in the success of others. Che io possa essere gioiosa e gioire nel successo degli altri. May I be peaceful and calm. Che io possa essere tranquilla e calma. May I be liberated of all my sufferings. Che io possa essere libera da tutte le mie sofferenze. May I experience the peace and bliss of Nibbana. Che io possa sperimentare la pace e la beatitudine del Nibbana. And radiating that goodwill to all beings in all directions. Adesso irradiamo questa benevolenza a tutti gli esseri in tutte le direzioni. May all beings be free of greed and selfishness. Che tutti gli esseri possano essere liberi dall'avidità e dall'egoismo. May all beings be free of hatred and ill will. Possano tutti gli esseri essere liberi dall'odio e dalla malevolenza. May all beings be free of fear and anxiety. Possano gli esseri essere liberi dalla paura e dall'ansia. May all beings be free of ignorance and delusion. Possano tutti gli esseri essere liberi dall'ignoranza e dall'illusione. May all beings be kind and gentle. Possano tutti gli esseri essere gentili e delicati. Sympathetic and benevolent. Empatici e benevoli. May all beings be forgiving and compassionate. Possano tutti perdonare con facilità e essere compassionevoli. May all beings be joyful and rejoice in the success of others. Possano tutti gli esseri essere gioiosi e gioire nel successo degli altri. May all beings be peaceful and calm. Possano tutti gli esseri essere tranquilli e calmi. May all beings be liberated of all their sufferings. Che possano tutti gli esseri essere liberi da tutte le loro sofferenze. May all beings experience the peace and bliss of Nibbana. Che tutti gli esseri possano sperimentare la pace e la beatitudine del Nibbana. Sabbe Sata Sukhita Hontu. Sabbe Sata Sukhita Hontu. Sabbe Sata sukhita hamtu. Sadhu, sadhu, sadhu. So maybe we can have a cup of tea, a cup of coffee or tea or something, and we can use the time just to have a little chat with each other upstairs. Quindi adesso possiamo andare a prenderci una tassa di tè o caffè, non c'è? Orzo. Orzo, cioccolata o tisana, e approfittando per fare anche due chiacchiere tra di noi. And silenzio. Yes, and just in case you get only to talk to one person, somebody can ring the bell every 10 minutes, and you have to find somebody else. Quindi porteremo una campana, e se vi capita di parlare solo con una persona, dopo 10 minuti sentirete la campana, dovete cambiare, parlare con qualcun altro. And we'll come down in about, say, half an hour, and we'll have a little discussion. Torniamo tra una mezz'oretta, facciamo una sessione di domande e risposte. Are you going to go? Yes, okay. Do you want to?